ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Il successo aveva perso l'indirizzo di Martin e i suoi messaggeri non bussavano più alla sua porta. Per 25 giorni, comprese le domeniche e le feste, sudò su La vergogna del sole, un lungo saggio di più di 30.000 parole. Era un deliberato attacco alla scuola di Maeterlinck, condotto dalla scuola della scienza positiva contro i sognatori di meraviglie, ma era un attacco che conteneva molta di quella bellezza e di quella meraviglia che appartengono ai fatti accertati. Poco dopo fece seguire a quel primo testo due brevi saggi, I sognatori di meraviglie e Il metro dell'ego. E per quei saggi lunghi e corti iniziò a pagare le spese di viaggio da un giornale all'altro. Durante i 25 giorni passati su La vergogna del sole, Martin vendette lavoro mercenario per la somma di $6.50. In dettaglio, un primo indovinello gli aveva fatto guadagnare 50 centesimi e un secondo, venduto a un settimanale umoristico di grande fama, si era conquistato $1. Due poesiole umoristiche si erano guadagnate rispettivamente $2 e $3 e come risultato, dopo aver esaurito tutto il credito concessogli dai negozianti e quello concessogli dal droghiere era cresciuto fino a $5, Martin riportò la bicicletta e l'abito buono al banco dei pegni. I tipi della macchina da scrivere stavano reclamando altro denaro, insistendo sul fatto che, secondo il contratto, le rate dovevano essere pagate rigorosamente in anticipo. Incoraggiato dai piccoli guadagni fatti, Martin decise di dedicarsi ancora al lavoro mercenario. Dopotutto, forse così era possibile guadagnarsi da vivere. Riposte sotto il tavolo c'erano ancora le 20 novelle brevi rifiutategli dall'agenzia che riforniva i giornali. Le rilesse tutte per scoprire come non bisognava scrivere novelle per i quotidiani e, nel far ciò, elaborò la formula perfetta. Imparò che le novelle per i quotidiani non dovevano mai essere tragiche, né finire male, e neppure dovevano contenere raffinatezze di linguaggio, sottigliezze di pensiero o reale delicatezza di sentimento. Ma il sentimento doveva essere presente, doveva essercene tanto, puro e nobile, del tipo che aveva strappato applausi anche a Martin quando, nei primi anni della gioventù, frequentava i loggioni. Sentimenti del genere «Per Dio il mio paese, lo zar!» e «Sarò povero, ma sono onesto». Imparate queste poche regole, Martin consultò la duchessa per il tono più adatto e iniziò a mescolare gli elementi secondo la formula. La formula consisteva in tre parti. Primo, una coppia di innamorati viene separata. Secondo, qualche azione o evento li riunisce. Terzo, campane nuziali. La terza parte era invariabile per quantità, ma la prima e la seconda potevano variare all'infinito. Ovvero, gli innamorati potevano essere separati da un'incomprensione, dal caso, da rivali gelosi, da genitori arrabbiati, da parenti interessati e così via. Potevano essere riuniti da un'azione coraggiosa dell'innamorato, da un'azione simile dell'innamorata, per l'improvviso mutare dei sentimenti dell'uno o dell'altra, dalla confessione forzata dei parenti interessati o del rivale geloso, oppure dalla confessione, questa volta spontanea, degli stessi, dalla scoperta di qualche impensabile segreto, dalle appassionate parole rivolte dall'innamorato al cuore della ragazza, dal lungo, nobile sacrificio di sé dell'innamorato e così via, senza fine. particolare successo riscuotevano quei racconti dove era la ragazza, al momento della riunione dei due amanti, a fare la proposta di matrimonio. E Martin, a poco, scoprì altri artifici piccanti e apprezzati. Ma non poteva apportare alcun cambiamento alle campane nuziali del finale. Il cielo poteva arrotolarsi come una pergamena e le stelle precipitare, ma le campane dovevano suonare in ogni caso. E per ciò che riguardava la quantità, la formula prescriveva una dose minima di 12.000 parole e una massima di 15.000. Prima di procedere oltre nell'arte della novella, Martin elaborò una mezza dozzina di schemi base che consultava sempre quando dava forma alle novelle. Questi schemi erano come le tabelle usate dai matematici, nelle quali si può penetrare dall'alto, dal basso, da destra, da sinistra, e ogni volta, attraverso decine e decine di righe e dozzine di colonne, è possibile ottenere migliaia di differenti soluzioni, tutte incontestabilmente precise ed esatte, senza calcoli o ragionamenti complicati. Così Martin, grazie ai suoi schemi, poté abbozzare nel volgere di mezz'ora una dozzina di novelle che poi mise da parte per rifinirle quando ne avesse avuto tempo. Scoprì che, dopo una giornata di lavoro vero, poteva completarne una nell'ora precedente il momento di andare a letto. Come confessò più tardi a Ruth, avrebbe potuto farlo dormendo. La parte più impegnativa era costruire la trama, e quello era diventato un processo puramente meccanico. Martin non aveva alcun dubbio sull'efficacia della formula, e in quell'occasione, sentendosi sicuro che i primi due racconti inviati gli avrebbero portato degli assegni, mostrò di conoscere davvero la mentalità degli editori. Gli assegni arrivarono dopo 12 giorni, due di $4 ciascuno. Stava facendo nuove e allarmanti scoperte nel mondo dei giornali. Sebbene il Transcontinental avesse pubblicato il suono delle campane, non era mai arrivato alcun assegno. Ma lui ne aveva bisogno e scrisse una lettera per chiederlo. Ricevette soltanto una risposta evasiva e la richiesta di altri racconti. E Martin aveva fatto la fame per 2 giorni in attesa della risposta, e fu allora che dovette impegnare di nuovo la bicicletta iniziò a scrivere 2 volte la settimana regolarmente al Transcontinental per chiedere i suoi $5, riuscendo solo di tanto in tanto a strappare una risposta. Martin non sapeva che il Transcontinental navigava in cattive acque ormai da anni, che era un giornale di quarta categoria, o piuttosto di decima, senza fama, con una circolazione incerta, in parte basata su richieste insistenti e prepotenze, e in parte su suppliche patriottiche e inserzioni pubblicitarie, che erano poco più di donazioni caritatevoli. Martin non sapeva neppure che il Transcontinental era l'unica fonte di reddito dell'editore e dell'amministratore, i quali potevano spremere un qualche sostentamento solo traslocando di continuo per non pagare l'affitto ed evitando di pagare tutto ciò che potevano non pagare. Mai avrebbe potuto indovinare che l'amministratore si era impossessato di quei particolari $5 per imbiancare la sua casa ad Almeida. La imbiancava di persona nei pomeriggi dei giorni feriali, perché non poteva permettersi di pagare le tariffe sindacali e perché il primo crumiro che aveva assunto era caduto dalla scala ed era finito all'ospedale con una clavicola rotta. Anche i $10 per i quali Martin aveva venduto i cercatori di tesori a un quotidiano di Chicago non si fecero vedere. L'articolo era stato pubblicato, come Martin si era accertato, consultando lo schedario della sala riviste della biblioteca, ma dall'editore non era giunta una sola riga. Le sue lettere furono ignorate, e Martin, per essere sicuro che fossero state ricevute, ne assicurò diverse. «È un vero e proprio furto», fu la sua conclusione, «un furto premeditato». Mentre lui faceva la fame, gli rubacchiavano la merce, quando vendere quella merce era l'unico modo a sua disposizione per procurarsi del pane. Dopo aver pubblicato 2/3 del romanzo a puntate di Martin, Youth and Age, che era un settimanale, chiuse, e con ciò si chiusero anche tutte le sue speranze di avere i $16 promessi. Per concludere degnamente, il Crogiuolo, considerato da Martin una delle cose migliori che avesse scritto, andò irrimediabilmente sprecato. L'aveva inviato a The Bellow, una rivista mondana di San Francisco, scoperta cercando disperatamente dove pubblicare i suoi lavori. Aveva scelto quella testata soprattutto perché la risposta sarebbe giunta rapidamente, dovendo viaggiare solo da Oakland attraverso la baia. 2 settimane più tardi, quando vide nell'ultimo numero in edicola il suo racconto, stampato senza tagli, illustrato e nel posto d'onore, fu travolto dalla felicità. Tornò a casa con il cuore che gli batteva all'impazzata, domandandosi quanto gli sarebbe stata pagata una delle sue cose migliori. Anche la celerità con la quale il racconto era stato accettato e pubblicato aumentava la sua gioia, mentre la sua sorpresa era resa più completa dal fatto che l'editore non lo avesse informato. Dopo aver aspettato 1 settimana, poi 2 settimane più qualche giorno ancora, la disperazione vinse la diffidenza e Martin decise di scrivere all'editore di The Bellow, suggerendo che, forse a causa di una svista dell'amministratore, il suo piccolo conto non era ancora stato saldato. Anche se si trattava solo di $5, pensò Martin, avrebbe potuto comprare abbastanza fagioli e zuppa di piselli per scrivere 1/2 dozzina di racconti come quello e altrettanto buoni. Martin ricevette una fredda lettera dell'editore che, se non altro, suscitò la sua ammirazione. «La ringraziamo», recitava la lettera, «per il suo eccellente contributo. L'intero ufficio ha apprezzato immensamente il suo racconto che, come avrà visto, è stato immediatamente pubblicato e al posto d'onore. Speriamo sinceramente che l'illustrazione sia di suo gradimento». Rileggendo la sua lettera, ci è parso che lei sia caduto vittima di un equivoco. La nostra testata, infatti, non paga il materiale non richiesto, non rientra nelle nostre scelte editoriali e il suo racconto non era stato richiesto. Naturalmente, quando l'abbiamo ricevuto, abbiamo dato per scontato che lei fosse al corrente della situazione. Possiamo solo dolerci profondamente di questo sfortunato equivoco e assicurarle il nostro più sincero rispetto. Di nuovo, ringraziandola per il suo contributo e sperando di riceverne altri nel prossimo futuro, le riconfermiamo, eccetera, eccetera, eccetera. C'era anche un po' scritto, il quale diceva che, sebbene De Billow non avesse una lista delle entrate di favore, con grande piacere gli facevano omaggio di un abbonamento per l'anno seguente. Dopo quell'esperienza, Martin batté sul margine superiore di tutti i suoi manoscritti «Sottoposto alle vostre usuali tariffe». Un giorno si consolò, «Li sottoporrò alle mie usuali tariffe». Durante quel periodo Martin scoprì in sé la passione per la perfezione e, in preda a quel potere, riscrisse e limò «Una via piena di folla», «Il vino della vita», «Gioia», «Le liriche del mare» e altri suoi lavori precedenti. Come ai vecchi tempi, 19 ore di lavoro al giorno non erano sufficienti a farlo sentire soddisfatto. Scriveva e leggeva instancabilmente, dimenticando nella sua fatica la sofferenza provocatogli dall'aver smesso di fumare. Aveva riposto nell'angolo più inaccessibile della credenza il sacchettino con la miscela regalatagli da Ruth, con la sua bella etichetta sgargiante. Martin sentiva la mancanza del tabacco, soprattutto durante i periodi di carestia. Sembrava non avere alcuna importanza quanto spesso riusciva a dominarsi. Quel desiderio era sempre lì, intenso, come prima. Martin considerava l'aver smesso di fumare come il più grande risultato che avesse mai raggiunto. Secondo Ruth, invece, lui non aveva fatto altro che quello che era giusto. Lei gli aveva comprato il rimedio per aiutarlo a non fumare più, pagandolo con i suoi soldi per le piccole spese, e dopo pochi giorni se ne era dimenticata completamente. Le novelle fatte in serie, sebbene Martin le odiasse e se ne facesse beffe, ebbero successo. Grazie ad esse riuscì a riscattare tutto quello che aveva impegnato, a pagare la maggior parte dei conti e a comprare delle gomme nuove per la bicicletta. Se non altro, gli permettevano di continuare a far bollire la pentola, lasciandogli tempo per dedicarsi a opere più ambiziose. Nel frattempo, l'unica cosa che lo sorreggeva erano i $40 che aveva ricevuto da The White Mouse, un precedente sul quale erano fondate tutte le sue speranze. Martin confidava che le riviste davvero di prima classe avrebbero pagato le opere di uno scrittore sconosciuto una cifra almeno uguale, se non superiore, a quella. Ma il problema era come riuscire ad entrare nelle riviste di prima categoria. I suoi migliori racconti, i saggi e le poesie andavano mendicando da una rivista all'altra, eppure lui ogni mese leggeva risme di roba piatta, noiosa e senza ombra di talento all'interno di quelle stesse copertine. Se un solo editore, talvolta pensava, si degnasse di scendere dal suo alto seggio di orgoglio per scrivermi un'unica riga di incoraggiamento. Non importa se ciò che scrivo è insolito, non importa se non è adatto per ragioni di opportunità ad apparire sulle loro pagine. Deve comunque esservi almeno qualche scintilla da qualche parte, ma almeno qualcuna, capace di accendere negli editori un qualche tipo di apprezzamento. Al che Martin, tirava fuori uno o l'altro dei suoi manoscritti, per esempio Avventura, e lo rileggeva ancora e ancora nel vano tentativo di scolparsi da quel silenzio editoriale. Mentre la dolce primavera della California avanzava, il periodo della pienezza per Martin giungeva alla fine. Lo strano silenzio dell'agenzia che riforniva i quotidiani di novelle l'aveva preoccupato per diverse settimane. Poi, un giorno, il postino gli restituì 10 delle sue perfette novelle fatte in serie. Erano accompagnate da una breve lettera che spiegava che l'agenzia aveva ormai materiale in eccesso e che sarebbe stato necessario attendere alcuni mesi perché il mercato si riaprisse. Martin, confidando in quelle 10 novelle, era stato meno economo del solito. Negli ultimi tempi l'agenzia accettava ogni novella che lui inviava, pagandogliela $5, e quindi lui aveva considerato quelle 10 novelle come già vendute e aveva vissuto di conseguenza come se avesse $50 in banca. E così Martin si ritrovò all'improvviso in un periodo di ristrettezza, durante il quale continuò a vendere i suoi primi sforzi a riviste che non li avrebbero pagati e a sottoporre i suoi lavori più recenti a riviste che non li avrebbero mai comprati. E quindi riprese i suoi viaggi verso il Banco dei Pigni, ad Oakland. Alcuni indovinelli e qualche verso umoristico venduti a dei settimanali di New York gli permisero di sopravvivere a malapena. Fu allora che Martin scrisse qualche lettera di inchiesta a diversi e importanti periodici e imparò dalle loro risposte che raramente prendevano in considerazione articoli non richiesti e che la maggior parte di quelli che pubblicavano erano scritti su richiesta da ben noti specialisti, dalle autorità nei loro campi specifici. By the way, you know the hope will make you strange, make you blink, make you blink, make you sink. It will make you afraid of change and often blame the box with the view of the world. And the walls that fill the frame, I turn it up, but then I turn it off because I can't stand when they start to talk about the hurting and killing, the shoes that we fit in, the damage and ruin, and the things that we're doing. God, we gotta stop, we gotta turn it all off, we gotta rewind. Started up again because I fell across the fall line. Ain't there nothing sacred anymore? Na na na na na na na na. Somebody saw him jump, yeah, but nobody saw him slip. I guess he lost a lot of hope. And then I lost the grip and I was lying in the freeway in the middle of this mess. Guess we lost another one just like the other one. Optimistic hypocrite that didn't have the nerve to quit the things I kept on wanting more until it finally reached the cold. Fell across the fall line. Ain't there nothing sacred anymore? Na na na na. Fu una dura estate per Martin. I lettori di manoscritti e gli editori erano via in vacanza. Le riviste che di solito gli spedivano una risposta in 3 settimane, ora trattenevano i manoscritti per 3 mesi e più. Se non altro, l'essere arrivato a quel punto morto lo aiutava a risparmiare i soldi dei francobolli. Solo gli editori pirata sembravano essere attivamente al lavoro e Martin collocò presso di loro i suoi primi sforzi, come La pesca delle perle, Il mare possibilità di carriera, La caccia alle tartarughe e Le rotte del nord-est. Per questi manoscritti non ricevette mai un penny. Dopo 6 mesi di corrispondenza riuscì ad estorcere un compromesso. Ricevette un rasoio in cambio di La caccia alle tartarughe, mentre la rivista The Acropolis, dopo avergli promesso per Le rotte del nord-est $5 in contanti e un abbonamento quinquennale, rispettò solo la seconda parte del contratto. Sonetto su Stevenson, Marty riuscì a spremere $2 da un editore di Boston che pubblicava una rivista con un gusto alla Matthew Arnold e un portafoglio pressoché vuoto. La Perla, un'intelligente parodia in poesia di circa 200 versi, appena finita e ancora calda, conquistò il cuore dell'editore di una rivista di San Francisco legata a un'importante ferrovia. Quando l'editore si offrì di pagarlo in trasporti ferroviari, Martin scrisse a sua volta chiedendo se fossero trasferibili. Ma non lo erano, e così Martin fu costretto a chiedere la restituzione della poesia, non potendo rivendere la ricompensa, e la poesia tornò indietro, accompagnata dal rammarico dell'editore. Martin la spedì di nuovo a San Francisco, questa volta a The Hornet, ma la luce di The Hornet aveva cominciato a oscurarsi ben prima che Martin nascesse. L'editore gli promise $15 per il suo lavoro, ma una volta che l'ebbe pubblicato, sembrò dimenticarsene. Martin, dopo aver inviato molte lettere senza ottenere risposta, ne compose una piena di rabbiose accuse che, infine, strappò una replica. La replica, però, era scritta da un nuovo editore, il quale, in tono freddo, lo informava di non poter essere ritenuto in alcun modo responsabile degli errori del vecchio editore e di non attribuire alcun valore a La Perla. Fu The Globe, una rivista di Chicago, a trattare Martin nel modo più crudele. Martin non aveva mai voluto offrire le liriche del mare per la pubblicazione fino a quando non mi fu costretto dalla fame. Rifiutate da una dozzina di riviste, alla fine le liriche si fermarono negli uffici di The Globe, che lo avrebbe pagato $1 per ognuna delle 30 poesie della raccolta. Il primo mese ne furono pubblicate 4 e Martin ricevette prontamente l'assegno di $4, ma quando le vide sulla pagina della rivista restò paralizzato dal massacro. In alcuni casi i titoli erano stati cambiati. Finis, per esempio, era stato cambiato in La fine, e la canzone dell'estrema barriera era diventata La canzone della barriera corallina. Beh, in un caso era stato messo un titolo completamente diverso, un titolo del tutto inadeguato. Al posto dell'originale I bagliori della Medusa, l'editore aveva stampato A ritroso sul sentiero. Ma il massacro compiuto nel testo delle poesie era terrificante. E Martin gemeva, sudava, si metteva le mani nei capelli. Frasi, strofe e versi che non gli appartenevano avevano sostituito quelli scritti da lui. Non poteva credere che un editore sano di mente potesse essere colpevole di un maltrattamento simile. E l'ipotesi più probabile, così pensava Martin, era che le sue poesie fossero cadute nelle mani di un fattorino o di uno stenografo. Scrisse immediatamente pregando l'editore di interrompere la pubblicazione delle liriche e di restituirgliele. Scrisse di nuovo, e poi di nuovo, supplicando, lusingando, minacciando, ma le sue lettere furono ignorate. Mese dopo mese il massacro continuava e, mese dopo mese, Martin riceveva un assegno per le liriche apparse sul numero corrente. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it.